Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Blagane zore, Balkan rock, bude verista, Sumaj radio, fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, anche oggi in ritardo, addirittura la prima puntata della nuova stagione di Balkan Rock, siamo in ritardo, come tutti i balcanici che si rispettino, anzi anche un po' montenegrini. Anche un po' montenegrini, ci abbiamo passato troppo tempo da quelle parti e ne abbiamo subito l'influenza. E tu ce l'hai proprio nei geni, eh? Ma anche tu direi, non so come mai, ma ce l'hai, ma dovresti chiederlo ai tuoi genitori, non lo so. Chissà, ci sono delle cose del mio albero genealogico che probabilmente non conosco. E allora, bentornati a Balkan Rock, la trasmissione di approfondimento sulla cultura pop dei paesi ex jugoslavi. Ma anche se non ci piace questo aggettivo ex. Anche tutte le volte me lo devi ripetere che non si dice ex. Vabbè, ma adesso siamo nella seconda stagione, quindi bisogna fare un sunto della prima stagione. A noi ex non ci piace. Va bene. Ci ripetiamo sempre su questo punto, anche se è iniziata la nuova stagione, la seconda stagione di Balkan Rock. Abbiamo iniziato ormai quando? A marzo dell'anno scorso, fine febbraio, abbiamo fatto queste 14 puntate, abbiamo fatto una lunga pausa estiva durata un mesetto e mezzo, giù di lì. Beh, anche di più, anche direi che è da giugno che non torniamo ai microfoni. Aspita. Sì. Non siamo andati da nessuna parte, se è questo che vi state chiedendo. Non siamo andati in Serbia, non siamo andati in Montenegro, ma ci riproponiamo di andarci molto presto. Sì, è stata un'estate un po' precaria, come quella di molti altri coetanei e non. Quella dei diversamente giovani. Quella dei diversamente giovani, ma vabbè, vedremo di recuperare in qualche modo. Benissimo, allora la puntata di oggi, come diceva Dusko, è dedicata ai meravigliosi anni 60. Io non ho detto ancora assolutamente niente. Che figuraccia che mi faccio in continuazione. Stiamo comunicando telepaticamente. Va bene, sì, pensavamo di fare un passo indietro. Non abbiamo mai affrontato questo decennio più di tanto. Magari ne abbiamo accennato un po' di qua, un po' di là. Dal punto di vista musicale non abbiamo mai approfondito. Sì, si è parlato del progressive rock degli anni 70 più che altro, ma non abbiamo mai fatto sentire il buon vecchio beat e garage rock, come si dice oggi. Che peraltro a me piace moltissimo come genere, infatti penso che faremo più puntate su questa annate, sugli anni 60, sì, che hanno sfornato davvero delle cose notevoli, anche perché come al solito anche oggi ci sono stati dei disguidi tecnici, per cui non abbiamo tutti i pezzi che avremmo voluto farvi sentire. In ogni caso, se ci seguite sulla nostra pagina Facebook Balkan Rock at My Radio potete trovare tutte quelle chicche che in trasmissione non abbiamo il tempo di farvi ascoltare. Quindi i magnifici anni 60, cosa succedono negli anni 60? Succedono un sacco di cose interessanti, un sacco di cose importanti. Ad esempio c'è stato il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, nel 1961. Il compagno Gagarin, il socialismo alla conquista dello spazio e dell'universo. Esatto, poi l'omicidio di John Kennedy nel 73, di Martin Luther King nel 68, ecco, e già che siamo nel 68 è impossibile non ricordare insomma le manifestazioni studentesche del 68 e Woodstock nel 69, quello è davvero un movimento musicale che ha travolto il mondo intero e che ha sicuramente influenzato anche, anche le sonorità jugoslave, che negli anni precedenti sono state influenzate tantissimo dalla musica italiana, soprattutto da quella che era la musica e la cultura popolare dell'Italia. Sì, c'erano molte influenze chiaramente dalla vicinissima Italia, ma chiaramente molti guardavano anche all'ovest, gli Stati Uniti erano il punto di riferimento per tutta l'Europa, i gruppi ovviamente oltre ai soliti Beatles e Rolling Stones che venivano ascoltati, seguiti e emulati, erano seguitissimi gli Shadows. Mi dispiace non avere un pezzo dietro degli Shadows da far sentire, mi piacciono molto. Beh, li faremo sentire nella prossima puntata degli anni dedicata agli anni 60. Assolutamente, adesso invece andiamo a sentire il primo gruppo di stasera, scegliamo subito un gruppo tutto femminile, una cosa abbastanza inedita per quell'epoca lì, stiamo parlando del 1965, quindi epoca pre-68, e andiamo a sentire Sagnalizze, le sognatrici, queste quattro ragazze giovanissime di Belgrado. Il gruppo, appunto, come dicevo, si è formato all'inizio del 65 e il brano in questione si chiama Bezreci, senza parole, e andiamo a sentire Sagnalizze. Oddio, andiamo a sentire il silenzio, The Sound of Silence, sound of, come dicevano The Sound of Sagnalizze, come dicevano eccoli qua, sono partiti. Dai, insomma, DJ, che se ci sei schiaccia il tasto dai, play. È la prima puntata dopo la lunga pausa. Dai, sentiamo Sagnalizze e buon ascolto con i 60s. E vai con Sagnalizze, Sveje senza kasno. Parole. Cosa dice Sveje kasno? Sveje kasno? Samo? Samo? Non lo sappiamo. Comunque era un pezzo del 1967. Dai, sembrava la sonora di un gruppo, di un film di Tarantino. Era bellissimo. Facciamo solo. È quasi garage punk. Facciamo solo trasmissioni sugli anni 60. Ti sei preso bene. Adesso. Tra l'altro dovremmo invitare Francesca Rolandi, che probabilmente verrà nelle prossime trasmissioni. Un'amica e compagna specializzata proprio nella cultura pop jugoslava degli anni 60. Scrisse una tesi di dottorato proprio sulle influenze della musica e della cultura italiana nella cultura jugoslava degli anni 60. fu proprio lei a farmi conoscere Betty Jurkovic, che presenteremo fra qualche istante. Questo era un pezzo, dicevo, del 1967. Nel 1967 succedevano tante cose. Non era del 67? Non era il pezzo era del 67, del 67. Sì, okay, sì. Ok, cosa succede nel 67? Allora, ad esempio The Summer of Love. Perché dici così? Perché si chiama così l'ondata dei gruppi californiani di fine anni 60 che hanno preceduto il 68, tutta la psichedelia, insomma. Si chiama The Summer of Love. C'erano tutta una serie di festival che fioriscono in quegli anni. Beh, tu che sei vecchio te lo ricordi slancio. Sicuramente. Già. Beh, cosa succede nel 67? Cosa? Sì. Ad esempio, la figlia di Stalin, Svetlana Alilujeva, scappa in USA attraverso. Sì. Questo dettaglio mi mancava. Attraverso l'ambasciata di New Delhi. Viene pubblicata la Declarazione Azivui Polozhaju Hrvatskog književnog jezika. Puoi tradurre, traduttore, grazie. La dichiarazione sulla denominazione e la posizione della lingua croata letteraria. Esatto. Di che cosa si tratta? Si tratta di una dichiarazione che in qualche modo si contrappone a quella del Novosadski Dogovor, cioè l'accordo di Novi Sad del 1954, dove veniva dato appunto lo status di lingua serbo-croata alla lingua appunto comune degli slavi del sud, degli abitanti della Jugoslavia, chiaramente non contando Macedonia e Slovenia. E non so altro riguardo questa dichiarazione, quindi possiamo passare a quello che è successo nel marzo. Ad esempio, sono gli scrittori serbi in qualche modo rispondono alla dichiarazione con Predlogom za razmišljanje kojim prihvataju njene stavove u vezi razgraničenja jezika. Cioè una dichiarazione, in qualche modo una specie di, come si potrebbe tradurre, predlog? Un suggerimento, una proposta. Una diciamo. Proposta, grazie. Guarda, se non ci fossi tu, come io non forza, sarei... forza. Una proposta in cui appunto accettano il loro, in qualche modo, posizioni sulla lingua croata, ma vorrebbero che i serbi in Croazia in questo caso utilizzassero la lingua serba e l'alfabeto cirillico. Questo è stato pubblicato sul quotidiano Borba il 2 aprile. Quindi le diatribe linguistiche già allora in tempi non sospetti. Sì, non erano così non sospetti come sembrerebbe. Poi cosa succede? A marzo, ad esempio, viene fatta una legge sugli investimenti privati. Una legge che è l'unica nel suo genere nell'Europa dell'Est, perché insomma il blocco socialista dell'Europa dell'Est, una legge sugli investimenti privati è abbastanza interessante. Bisognerebbe sapere che cosa c'era scritto, ma questo Wikipedia non me lo disse. C'erano degli accordi, sì, a me viene in mente con le grandi aziende energetiche e petrolifere. Importavamo, mi pare, dagli Stati Uniti il petrolio. Faccia dell'Unione Sovietica. Chi è? Invece quest'anno tutti a legna. Vabbè, poi il festival famosissimo Cine Festival di Pola vince la Velika Zlatna Arena, cioè il primo premio, Skupljači Perja, uno dei miei film preferiti, che in italiano è stato tradotto con Non ho mai incontrato zingari felici. Sì, mi pare di sì. Di Aleksandar Petrovic, del appunto 67. Un film meraviglioso, sì. Con una donna meravigliosa come protagonista. Poi, ahimè, a ottobre viene ucciso Ernesto Che Guevara. Ceausescu diventa capo della dello Stato romeno. E all'inizio dell'anno furono gettate delle bombe nelle sedi diplomatiche di 6 città in America e in Canada. Sì. Sì. Non so se in qualche modo è legato al fatto che l'America in quell'anno aveva sospeso la vendita di grano alla Jugoslavia, sulla base del fatto che appunto aveva cercato di eliminare i crediti ai paesi che commerciavano con Cuba e il Vietnam del Nord. Comunque la prossima volta magari me le traduco prima le notizie. Sì, perché questo sembra che i terroristi jugoslavi hanno messo le bombe in America nel 67, secondo questa versione ucronica dei fatti. Va bene. No, vabbè, le bombe ci sono state nel 67 in 6 città in America e in Canada. Poi nello stesso anno l'America aveva sospeso la vendita del grano. Ah, ok, no, perché messo una cosa dietro l'altra, sembrava che fossero connesse, ma è... in realtà, cioè, molto probabilmente è assolutamente no. Fuorviante. Appunto, non c'entra niente. Poi in Malesia, Malesia adesso. La Malesia quell'anno apre la prima ambasciata in Jugoslavia. Io volevo dirvelo perché magari voi non lo sapevate. Va bene. No, aspetta, perché poi ci sono altre cose molto importanti. A parte che in Albania, vabbè, viene. Ecco, vedi perché me lo devo tradurre prima. Viene vietata la religione. La religione, giusto? È stata. Sì, hanno abolito le chiese. Questo punto di vista erano avanti, Forse l'unico. Sì, dai, ma proibito. Taci per favore, perché sennò qua ci arrestano. Sì, quindi alle chiese, alle moschee, ai monasteri, insomma, viene dato diversa destinazione. Poi nasce Kurt Cobain, che morirà nel 94 alla tenerissima età di 21 anni? 27. Sai che tutti muoiono a 27 anni, sì. Jimi Hendrix, James Joplin, tutti qua sono sempre a 27. Amy Winehouse, eccetera. Meno male che abbiamo sopravvissuto i 27. Solo che noi non eravamo delle rock star, forse per questo. Vabbè, questo lo pensi Kurt tu. Cobain, purtroppo lui non ha fatto in tempo a suonare nella ex Jugoslavia, però mi ricordo che il bassista Novosevic prese qualche posizione filo-croata ai tempi, mi pare, essendo lui di quelle origini. Ma non importa, andiamo avanti a sentire un po' di musica, se no vi stufiamo con troppe chiacchiere. E andiamo... Sì, il prossimo pezzo, tra l'altro, lo dedichiamo a un amico di Bagnaluca. Ok, vogliamo dire chi? Eh sì, non fare quella faccia, no? Stavo dillo. Aspettando. Abbiamo un amico a Bagnaluca. Un amico a Bagnaluca, ovvero il professore e console onorario italiano nella Repubblica Srpska, il signor Danilo Capasso. Comunque sei stato formale, mamma mia. Vabbè, cosa gli dedichiamo? Gli dedichiamo un bel gruppo beat che si chiama Ellipse, sempre belgradesi, con la canzone, mi pare sia un pezzo strumentale, Maya, che è un nome. E andiamo a sentirci gli Ellipse, che ai tempi spopolavano insieme ai Silhouette, erano i due gruppi principali, tra i primi direi, che hanno iniziato con il beat. Il pezzo si chiama Maya. erano Ellipse, una canzone del 1966. Il gruppo belgradese, appunto Ellipse, è stato fondato nel 1963 nell'ambito di un circolo, di uno dei tanti circoli culturali di allora, quelli di Stato. Loro hanno dietro la classica storia da bravi ragazzi che organizzano queste feste nelle case, non c'erano altri spazi per questo tipo di musica. Si ritrovavano e una sera si era rotto il giradischi e allora si sono messi a strimpellare, e così è nata l'idea di mettere su un ensemble, un gruppo. Quei tempi scarseggiavano ovviamente gli strumenti musicali in un paese in via di sviluppo come l'ex Jugoslavia. Non è che si poteva andare nel primo centro commerciale a acquistare gli strumenti, quindi spesso si ricorreva a delle cose fai da te, alle chitarre classiche o acustiche con dei magneti incorporati e con degli switch messi successivamente. E quindi ci si arrangiava alla belle meglio. Sai che mio padre tipo ha a casa un amplificatore costruito con una cassa e una vecchia radio? Io ho sempre detto che tuo padre è uno dei miei. Ma non, questo l'ha recuperato alla scuola di musica, era lì in cantina che marciva da 40 anni. Fantastico. E c'è tutta una storia che adesso non mi ricordo, però l'ha costruito un tizio che non, credo sia morto, non c'è più purtroppo. Come si chiama? Non mi ricordo il tizio come si chiama, però è uno che frequentava i concerti del gruppo di tuo papà. Esatto, degli Exodus, che poi andremo a sentire. Bene, quindi questo, il pezzo di prima era un pezzo del 66. Cosa succede nel 66? Ecco, stasera sei in vena di... Mi piace tantissimo questo correva gioco. Correva l'anno 1966. La puntata correva l'anno. E veniva stampato il primo numero della rivista Tempo, che era appunto il più vecchio, la più vecchia rivista sportiva nei Balcani. Poi veniva fondata la Beogradska autobuska stanica, cioè la stazione degli autobus a Belgrado, e veniva fondato un'altra rivista importantissima soprattutto per la musica, Jukebox. Il primo numero usciva il 3 di maggio del 1966. Mitica rivista musicale. Posso usare secondo te l'imperfetto? Perché no? Va bene, allora continuo così. Jukebox, sì, forse non so se abbiamo già accennato una volta questa cosa, quando si parlava della New Wave dava moltissimo spazio ai gruppi emergenti di fine anni 70, no? Ai Charles Acrobata, agli Idoli, ai Haustor, a tutta quella ondata che venne dopo il 77, quindi il punk e il new wave. Vabbè, ma torniamo ai anni 60, torniamo in particolare a correva l'anno 66. Ecco, cosa è successo ancora? La Jugoslavia e il Vaticano hanno ripreso i rapporti diplomatici e in America, cioè in USA, veniva fondata appunto l'organizzazione Black Panthers. Ma la cosa più importante del 1966, adesso ci vorrebbe una colonna sonora un po' romantica, è che si sono incontrati John Lennon e Yoko Ono. Probabilmente fecero all'amore per la prima volta nel 1966, probabilmente il 9 novembre. 9 novembre, interessante, questo non sapevo che si conoscesse che già allora, insomma, vabbè. Poi una notizia così un po' di costume, veniva aperto la prima boutique a Belgrado e si chiamava Eva, la boutique in questione. Poi Gilas veniva appunto mandato a casa perché era in prigione già dal 1962, veniva rilasciato. E poi a dicembre, cosa importante, la polizia in qualche modo tenta di sedare una rissa, una protesta contro la guerra in Vietnam, durante una manifestazione appunto contro la guerra in Vietnam a Belgrado. I manifestanti furono repressi duramente. Poi Nikica Marinovic, una bellissima ragazza di Dubrovnik, vince il premio di Miss Mondo. Ma dai, una... a Londra, sì, è appunto una moretta di Dubrovnik. Adesso poi, se vuoi dopo te la faccio vedere, ma con calma. Assolutamente. Solo gli occhi. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. No, ma aspetta, perché tu mi devi sempre così fermare sul più bello. Cioè, cosa c'è di? Mi mancano le nascite del 1966. Sì, ma sono terribili, sono impronunciabili, innominabili, cioè, vabbè. Vabbè, quell'anno lì non è nato Ivica Dačić, il panzone. Ma Dačić era premier prima, sì. prima di Vučić, Dačić i Vučić. C'è questa assonanza. Esatto, sembrano due personaggi di qualche cartone animato russo degli anni 60, appunto. Poi chi altro è nato? È nato personaggio innominabile, sì, il cantautore fascistoide Marco Perkovic Thompson, con le aquile, le spade, i teschi e quant'altro di coreografia, che fa questa specie di hard rock orrendo condito di testi pseudo patriottici. E vabbè, il 1966 non ci ha dato un fior fior, insomma, di personaggi. No, non è mai qualcuno di buono sarà pur nato anche quell'anno, però vabbè. Bene, allora andiamo ad ascoltarci un pezzo davvero davvero davvero bello che dedichiamo a Dragan. Si chiama Dragan di Herceg Novi, il pezzo infatti è suo, e questo è un gruppo montenegrino, sempre di fine anni 60, mentre le altre band erano delle grandi città, appunto Belgrado, Zagabria, eccetera, gli Exodus erano della piccolissima Herceg Novi sulla costa montenegrina. La canzone si chiama Tužan sam kad kiša pada, cioè sono triste quando piove. Opla, vi ho fatto di nuovo lo scherzo di nuovo The Sound of Silence. Ma mentre ascoltiamo Simon questo Simon e Garfunkel ci perseguitano. Ma andiamo a sentire Tužan sam kad kiša pada, ok? Ok. Thank you. eccoci, questi erano Exodus, una canzone con cui hanno partecipato ad un festival, anzi una gara, le famose Ghitariade, si chiamavano così. C'era la Ghitariada di Zaječar, che esiste ancora, e la Ghitariada di Belgrado, che mi pare non si faccia più ormai da decenni. Bene, l'abbiamo dedicata a Dragan, che tra l'altro era alla chitarra e alla voce, che è anche il genitore del mio compare qua a fianco a me, Dusko. Ecco, forse al basso e alla voce, non vorrei dire basso e voce, sì, non chitarra e voce. Poi dopo è passato alla chitarra, sì. Beh, comunque un giorno potremmo intervistarlo, potremmo fare una puntata addirittura tutta dedicata a questo gruppo. Quindi correva l'anno 1900, il fatidico 1968. Un anno importantissimissimo, anche perché la cosa più importante dell'anno era che il Politikin Zabavnik passava da formato mi ridere in faccia, passava dal formato insomma quello stampato, quello di carta, al formato rivista, quello più rigido. Dobbiamo spiegare che cos'è Politikin Zabavnik, però. Vai, è tutta vabbè tua. Che abbiamo gli ascoltatori composti da esperti, però magari qualcuno gli sfugge. Competenti. Assolutamente competentissimi. Politikin Zabavnik è una rivista per ragazzi e giovani, contiene articoli di curiosità scientifiche, geografiche, culturali, notizie strane, storie di vita, e poi anche fumetti di vario tipo, tra cui c'era anche, com'è che si chiamava? Quello dei due antichi slavi che vengono a fare da vedette nei Balcani per vedere se ci si può migrare, se ci sono spazi, si chiamava Dikan. Beh, c'è ancora forse? No, non lo so. Quelli se c'è sono ancora, i vichinghi. L'hanno fatto. Non ci sono dei vichinghi nel Politikin. Hogar, ma Hogar non è di un disegnatore slavo. Invece, Dikan è una sorta di risposta, che ne so, ad Asterix e Obelix, ad esempio. Capito. Bene, bene. Poi cosa succede ancora nel 1968? Nasce Danilo Capasso. Questa è una cosa molto molto importante per la storia della nostra della Repubblica Srpska. Della Repubblica Srpska. Beh, certo. Poi cosa succede ancora? Tito va a Kabul in Afghanistan in visita. Dopodiché a maggio, questo succedeva a gennaio, a maggio incontra Ceaușescu e dicono: vabbè, sai che c'è, caro Ceaușescu? Che poi c'è. Non si sa se si dice Ceaușescu o Ceaușescu. Boh, Ceaușescu. Probabilmente sì, però vabbè. Gli dice: caro Ceaușescu, sai che facciamo? Ma non ci mischiamo troppo nelle cose degli altri. Cioè, ad esempio, no? A proposito della pressione sovietica nella Cecoslovacchia, ma facciamoci un po' gli affari nostri, poi cambieranno idea più avanti. Però questa è la versione del 68. E beh, conveniva farsi gli affaracci propri. Sì, hanno fatto una fatica a distendere i rapporti con l'Unione Sovietica, insomma, fargli guerra era un po' un casino, no? Eh sì, eh sì. E vabbè, poi insomma iniziarono le fatidiche dimostrazioni studentesche, manifestazioni studentesche del 68 anche in Jugoslavia, ad esempio in particolare nella Belgrado, nella parte vecchia, nella parte del centro città. Ma lo sai come iniziarono le manifestazioni studentesche a Belgrado? Quale diccelo fu tu, casus belli, non lo sapevi? No. Ma come tutto da quelle parti inizia in maniera abbastanza rocambolesca, perché in pratica tutto ebbe inizio con una rissa, perché ci fu un concerto a numero chiuso e dei ragazzi che volevano entrare a tutti i costi furono malmenati e sbattuti fuori. Allora in molti accorsero in solidarietà per chiedere delucidazioni, eccetera. E poi la cosa degenerò e diventò una vera e propria manifestazione, ognuno ci buttava dentro un altro, insomma, sono stati poi dati dei contenuti politici alla cosa. Sì, infatti l'università, il centro poi delle riunioni, delle manifestazioni era il Plato, dove c'è per intenderci l'università di filosofia, che era stata rinominata Zerveni Universität Karl Marx, cioè l'università rossa di Karl Marx, proprio in quei giorni. Per andare avanti, correva l'anno 1968 e in Italia veniva disputato Europeo Prvenstvo U Football, cioè gli europei di calcio. Vinceva l'Italia al primo posto e la Jugoslavia andava al secondo posto. Sì. Infatti nella finale Italia-Jugoslavia, appunto, prima nella semifinale ci fu un pareggio e poi vinse l'Italia per 2-0. Poi, dopodiché, Tito andò in visita a Praga. Mi chiedo perché, che ci andava a fare? Aveva detto prima che si faceva gli affaracci sua sulla questione cecoslovacca e poi va a Praga. Insomma, a scusarsi. E niente. E poi viene sempre in quell'anno, in settembre, stampata la prima Bibbia croata, cioè in realtà la prima versione, insomma, della Bibbia, non in lingua croata, ma comunque stampata in territorio croato. Poi ci fu questo nel novembre, un terremoto molto molto forte a Bar in Montenegro. E poi cosa successe a novembre, Dule? Diccelo tu. A novembre del 68? Vuoi dire, ti riferisci alle manifestazioni in Kosovo? Sì. No, sì. Le manifestazioni dei giovani nazionalisti albanesi che chiedevano l'autonomia, credo, no? Esatto, bravo, vedo che hai studiato. L'autonomia del Kosovo, che fu anche ottenuta poi, mi pare, no? Eh sì. E poi nasceva anche Slaven Bilic, l'ex allenatore della nazionale croata, quel gran pezzo di gnocco. Ah sì, aggiungerei come sottotitolo. Non ne sapevo nulla, sono un alieno dell'ultraspazio per quanto riguarda il calcio, quindi mi sfuggiva anche questo dato qua. Benissimo, allora cosa abbiamo sul piatto virtuale? Abbiamo The Beatman. Ma abbiamo menzionato Cecoslovacchia, l'invasione, eccetera, il fatto, gli incontri di Tito e Ceausescu e poi la successiva visita. Allora andiamo a sentirci un gruppo cecoslovacco, un gruppo beat di quegli anni, che appunto si chiama The Beatmen, e allora addirittura cantavano in inglese, nella lingua proibita. Mamma mia. Ai, non avevano tutti i torti sovietici a invadere. Dai, andiamo a sentire The Beatmen. Il pezzo si chiama... Non vuoi pronunciare, lo vedo, te lo leggo in faccia che non vuoi pronunciare il pezzo perché ha... The Enchanted Lie. The Enchanted... che pronuncia di Calzaniseto. Senti chi parla. Buon ascolto. erano The Beatmen, il gruppo cecoslovacco che appunto a quanto pare si ispira ai Beatles, a sentirli così. I Beatles. Beatles. Oh già. Correva l'anno 1965. Ecco, sei un fan di Correva l'anno. Sì, mi piace. Abbiamo un capito. Sacco questo gioco. Allora, il 23 giugno ci fu un tentativo di omicidio su Andrija Klarić, che era il console jugoslavo a München. Console jugoslavo a München, sì, sì, da parte degli Ustasha, no? Probabilmente sì, hanno infatti poi catturato 7 migranti croati. Poi questo, in realtà le responsabilità non vengono chiarite dal mio amico Wikipedia, però. Sì, in quegli anni ci fu anche, credo proprio nel 68, l'anno prima, l'anno dopo, una bomba in un cinema di Belgrado. Ti risulta? No, non mi risulta. Come non ti risulta? Non mi risulta. Insomma, i primi segnali forti, cioè i primi, in realtà non erano i primi, però diciamo il primo attacco terroristico in centro di Belgrado ad opera dei fascisti Ustasha, no? Sì, a Monaco di Baviera, mi correggono dalla regia, perché sennò non ci capiscono in effetti quando diciamo München. München, Monaco di Baviera, esatto. Giustamente. Dunque, poi cosa succede? Una cosa importantissimerrima: Aldo Moro è in vacanza, cioè non in vacanza, è in visita in Jugoslavia. Oh, wow. Sì, esattamente dall'8 al 12 novembre. Poi viene cambiata la denominazione del dinaro, cioè dai 100 dinari precedenti il valore passa di 100 dinari a un dinaro, ok? Non si è capito niente. Che grande conquista, insomma, fu frenata l'inflazione o qualcosa del genere? Eh beh, in qualche modo sì, negli anni precedenti, come avremo modo di vedere, cioè, ci fu un'inflazione abbastanza forte. Cosa succede? Czernyansky se ne torna da Londra, dove appunto scrisse Romano Londonu, il romanzo su Londra, e torna in Jugoslavia, e poi nasce il 28 marzo Srđan Todorović, il regista e musicista molto noto ultimamente, non regista ma attore. Volevi dire? No, Srđan Todorović. Srđan Todorović è quel Žika. Ah, ok, no, ho fatto confusione, scusate. È il baffo. È il baffo, ok, no, ho pensato a Srđan Dragojević. Ah, ecco, sì, ti sei. Si chiama Srđan Dragojević. Non lo so. No. Quello che ha fatto Parada, quello che ha fatto Lepasello, si chiama Srđan. Insomma, Kako è proprio rock and roll, eccetera, eccetera. Tra l'altro, Kako è proprio rock and roll, in cui anche Žika faceva un ruolo, adesso non mi ricordo quale. Vabbè, ma comunque ne ha fatti miliardi di film. Žika. Il baffo. Meglio noto come baffo. Va bene. Cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo, se vuoi, Betty Jurkovic. Grande Betty Jurkovic. Betty Jurkovic, che abbiamo introdotto proprio oggi attraverso il nostro gruppo con la cover di Rita Pavone, Nogomet na utakmica, cioè la partita di pallone. Perché sia lei che un'altra cantante croata fecero appunto la cover di questa grande canzone italiana, questo uno dei primi segnali proprio dell'influenza che la cultura italiana e la musica italiana ebbero proprio in quel decennio nella musica jugoslava. Allora andiamo a ascoltarci Paganini Twist. Niente male come titolo. Di ma Betty Jurkovic. È rock and roll sto pezzo? Eh beh, twist. Ok, perché Betty Jurkovic faceva più la canzone pop. Dai, sentiamo questo twist. Odjedne teme, nekad ju je zaljubljeno svirao list, a danas ravnodušno od nje prave običan twist. I neki bune se već, to nije posao čist. Odjedne takve teme prave Paganinije twist. Starog ritma se drže, sada se stvari sviraju brže, kao na ruletu kad se okreće grad. I Paganini stari drugčije bi svirao tad, jer tako kratak je dan, a tog ritma se drže, sada se stvari sviraju brže. Kao na ruletu kad se okreće grad, i Paganini stari drugčije bi svirao sad, jer tako kratak je dan, a nekud žuri se svijet, i vrijeme sada svira jedan novi ludi koncert. Kao na ruletu kad se okreće grad, i Paganini stari drugčije bi svirao sad, jer tako kratak je dan, a nekud žuri se svijet, i vrijeme sada. Grande questo pezzo qua, questo, che in questo ritornello in pratica sintetizza quello che succede, come si trasforma la musica. Dice anche Paganini oggi suonerebbe in modo diverso, perché le giornate sono sempre più corte e il mondo corre veloce da qualche parte. Questo era fichissimo e lo dedichiamo alla nostra fichissima amica di Bagnaluca, perché noi abbiamo due fichissimi amici a Bagnaluca, uno è Danilo e l'altra è Martina, e quindi questa era tutta per te, Betty Jurkovic, che è una delle mie cantanti preferite, quindi adesso proprio insomma devi esserne onorata da questa dedica meravigliosa. Benissimo, allora torniamo un po' a parlare di musica di quegli anni. Non mi fai dire niente sulla Jurkovic? Vabbè, sì, dai, visto che abbiamo fatto sentire un pezzo, cosa volevi dire sulla signora? Sulla signora Elisabetta. Allora, sulla signora Elisabetta volevo dire che appunto fece questa cover di Rita Pavone, la partita di pallone, ma non fu l'unica a farla, perché anche Nada Knežević, vi invitiamo poi ad andarla a vedere sulla nostra pagina, fece lo stesso tipo di cover. Tra l'altro non ebbe, è nata ad Opatija, abbazia, 1936, ma in realtà decise di dedicarsi alla famiglia, quindi non cantò per molti anni. Diciamo che cominciò la carriera verso il 1960 e la terminò negli anni 80, ma anche prima in realtà. Cioè gli anni fondamentali, gli anni d'oro della Jurkovic sono dal 65 al 70, per intenderci. E grande signora Jurkovic. Tra l'altro qua c'è una foto di lei nei giorni nostri, che è meravigliosa, una signorotta croata. Una foto del 2009. No, comunque grande Elisabetta. Cosa volevi dire tu invece? Se me lo fai dire, magari. Volevo dire una cosa importante. Ecco, sto cercando di catturare la tua attenzione, ma sei già in stand by. Inizio a parlare io, boh. Volevo parlare di Radio Lussemburgo. Direi che c'entra adesso Radio Lussemburgo con infatti che c'entra Radio Lussemburgo? C'entra perché aveva uno dei segnali più potenti dell'epoca, probabilmente dopo Radio Teheran e Radio Tirana. Ma non solo questo, quindi poteva sentirsi benissimo in tutta Europa sulle onde medie, onde corte, onde medie, e aveva una programmazione musicale all'avanguardia per i tempi. Perché? Perché lanciavano tutti i gruppi emergenti di allora, quindi facevano sentire la scena beat, la prima psichedelia, le prime sperimentazioni musicali, e si scostavano molto dall'impostazione un po' rigida, un po' seriosa di fare radio a quei tempi. E quindi nei paesi dell'est, quindi anche nell'ex Jugoslavia, è inutile che mi prendi in giro. Perché, no, io non ti prendo assolutamente in giro. Lo dico. Voi a tutti, avete per caso sentito aperti. Qualcosa? Io faccio la radio all'antica, quella pre-radio Lussemburgo, quella un po' noiosa, seriosa, senza sfondo, The Sound of Silence. E dai, e allora, insomma, qual è il quid della situation? E qual è il quid? Che non è che questi andavano nel negozio dei dischi e si compravano l'ultimo disco dei Shadows, ma dovevano ascoltarsi Radio Lussemburgo con i gorgogli delle onde medie e in quel modo tirare giù i brani. Cioè le prime cover band facevano così, si attaccavano la sera a Radio Lussemburgo con la loro chitarrina acustica e tiravano giù i brani dei gruppi inglesi e americani di allora. Capito? Capito? Non sembra che ti interessi molto questa cosa, eppure tutti i musicisti di allora ne parlano con grande entusiasmo di questo periodo pionieristico dove ci si arrangiava in questo modo e non si avevano nemmeno i gira, non si aveva in casa nemmeno un giradischi, ma soltanto una radiolina. E vabbè, pazienza, niente, ma volevo dire che era una cosa fondamentale per i VIS di allora, Vocal No Instrumental Ni Sastri, no? Già. I complessi vocal strumentali, no? Instrumentali, giusto? Sì, e perché era importante? Che era un modo di far veicolare le nuove tendenze, le nuove sonorità, le nuove sperimentazioni e trasformazioni della musica rock, no? Che domande? Va bene, mi sto addormentando. Sì, infatti mi stai chiedendo delle cose ovvie. Va bene. Tra l'altro, lo sapevate che? Lo sapevate che? La Nada Knežević è una parente alla lontana della Martina di Bagnaluca a cui abbiamo dedicato... Io sapevo che avresti detto qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con quello di cui ho parlato fino adesso. Perché era interessante, però volevo anche dire questa cosa perché era più interessante. Ah sì, chi è Nada Knežević, scusami? Chi è Nada Knežević? No, guarda, metti il prossimo brano perché sennò mi arrabbio. Sì, cosa ascoltiamo? Metto il prossimo brano perché qua non andiamo d'accordo. Andiamo a sentire un'altra band con quei nomi buffi. Questi si chiamano Uragani, cioè gli Uragani, niente meno, con la canzone Jour. Sai cosa vuol dire Jour? No, cosa vuol dire Jour? Jour è equivalente di party, quindi questa canzone si chiama è semplicemente party. Semplicemente il l'abbreviazione di Jurka. Non è un'abbreviazione. Come no? Adesso mi documenterò e documentiamoci e poi va bene. Dopo aver sentito la canzone, buon ascolto con gli Uragani e la canzone Jour. Con la canzone Jour, Party, Festa. uno dei tantissimi gruppi beat di quegli anni. Una canzone che abbiamo dedicato, anzi che dedichiamo a Eleonora, che dalla regia dice è terribile. È terribile, ma no, Eleonora, vabbè, è così carina. Con tutti questi gruppi che si ispirano alle band come The Animals, The Birds, The Monkees, The Kinks, The Who, e avevano questi nomi buffi, come ad esempio, ne citiamo qualcuno di quelli che non abbiamo sentito, magari è ancora più sconosciuto, di cui non si trovano più nemmeno i brani, ad esempio Condori, Iskre, Mladi Lavovic, vuol dire i giovani leoni. Poi c'è Lasseri, cioè il laser, Dinamite, questi erano forti, Dinamite già suona più heavy metal che beat, e così via. Quindi ti sei addormentata di nuovo? Cioè veramente, non lo so. No, non è che dici delle cose che non sono interessanti per me. Ogni volta che apro bocca, boh, vai stand by, non parlo più, vabbè. Tanto no, la trasmissione sta per terminare. Sta per terminare, ma minuti. Non prima che io dica a microfoni aperti che il nostro comitato da casa, il comitato di censura / dizionario, ha controllato e jour è il diminutivo di jurca. È un diminutivo allora? Sì, caro mio. Vabbè, ok, cioè io non sono un linguista, posso sbagliare. Vabbè, ti vogliamo bene anche così. No. Comunque, correva l'anno. Ancora, dai, dobbiamo proprio. No, dico due cose sugli anni 60 perché ci sono delle cose che non abbiamo la citato. RAI degli anni 60, infatti. Beh, è quello che la RAI faceva dilettantesca. Di bello. Dunque, nasceva l'amica Živojinović, meglio conosciuta come Lepa Brena, la bella Brena, il 20 ottobre del 1960, credo a Bihać, ma non lo so. Sì, non sì, lo deve so. Essere di Bihać, no? Non lo so. No, non è di Bihać lei. Vabbè, bosniaca da qualche West, parte. Sì. Non mi ricordo. Poi, vabbè, nasceva anche Diego Armando Maradona. Vabbè. Poi Elvis Presley tornava in quegli anni dalla Naia in Germania. Sì, a cui ha fatto dei grandi spottoni pubblicitari per l'esercito statunitense, no? Quando partiva, sì. Si è reso testimonial. Sì, poi la Jugoslavia disse che avrebbe continuato a pagare il debito della Kraljevina Jugoslavia, cioè del regno di Jugoslavia, cioè quindi la prima, il primo governo comunista che fa un'affermazione del genere. Poi veniva fondata l'università di Novi Sad e veniva girato il film Ljubav i moda. Te lo ricordi il film Ljubav i moda? Sì, cioè non l'ho visto, ma so di che cosa si tratta. È un film, diciamo, primo film sul modello occidentale hollywoodiano, ma più che hollywoodiano in realtà si rifà al cinema italiano, Ljubav i moda, cioè alle commedie romantiche italiane degli anni 60. Un film che parla delle frivolezze giovanili, degli amori giovanili, no? Del andare in giro in Vespa e tutte queste cosine qua, no? Film all'insegna del disimpegno, diciamo. Bene. Questo era il 1960, poi nel 1961 c'era sempre Gilas che faceva avanti e indietro dalla prigione, non si sapeva bene quando entrava, quando usciva, faceva sempre avanti e indietro. Vabbè, ma se non diciamo niente di sto povero Gilas. Vabbè, ma stiamo facendo correva l'anno, non stiamo facendo degli approfondimenti. Quando vorrai fare l'approfondimento su Gilas, farai il tuo giochino dell'approfondimento su Gilas. Vabbè, allora lascialo in pace sto povero Gilas che si ribalta nella tomba. Insomma, poi invece fra febbraio e aprile Tito era in tournée in Africa, in Ghana, Togo, Liberia, Guinea, Marocco. E vai, bella vita, Egitto. Fare safari e girare con la. Con cosa ci è andato? Con la nave? Con la Galeb? No? Sì, col Galeb. Con la nave Gabbiano. Nave Gabbiano. Esatto, che è stata forse restaurata negli ultimi anni. Sapevi? Ma dai? Sì, no, non lo sapevo. Ancora. E in adesso che porto è? Sarà Brioni? Deve essere in Croazia, qualche parte, sì. Non mi ricordo sul tipo di utilizzo, sono trasformati in un museo, ok. Però è esiste ancora, le facevano perdurare le cose una volta, tra l'altro non era neanche di produzione jugoslava, Galeb, l'hanno acquistata dall'estero, non so dove, da qualche paese baltico o qualcosa del genere, mi pare, sì, da qualche paese baltico. Poi cosa succede ancora nel 61? Un sacco di altre cose. Io adesso me ne vado a casa, ti lascio qua a fare il corevanno fino a domani mattina. Perché no? Ljiljana Petrović, una cantante di Novi Sad, per la prima volta, quindi per la prima volta non la Petrović, ma per la prima volta la Jugoslavia partecipava a Eurovision, cioè il famoso contest musicale a Cannes, con la canzone Neke davne zvijezde. Neke cosa? Neke davne zvijezde. Poi ci fu l'Eurobasket a Belgrado, al primo posto si qualificò SSSR, al secondo posto la Jugoslavia, al terzo la Bulgaria. Poi sempre nello stesso anno veniva chiusa il confine, diciamo, con Berlino Ovest, e iniziava la costruzione, cioè le fondamenta proprio del muro di Berlino, mentre a Belgrado invece iniziava la prima conferenza dei paesi non allineati. Wow. E nel frattempo, gli argomenti che meriterebbe. E nel frattempo a Guccia iniziava il primo festival di trubaci, di fiati e di ottoni. Chissà che roba rustica a quei tempi. E nel frattempo Barbie si fidanzava con Ken. Di questo proprio non c'è un po' fregare di me. No, è vero, importante, cioè prima Barbie, fino al 1960 Barbie era Barbie, dal 1961 è proprio, si fonda, no, la coppia Barbie-Ken. Prima era single, adesso non più. E poi un'altra cosa di fondamentale importanza, nasceva Achim Atari il 16 gennaio. Un'altra cosa di fondamentale importanza è che Ivo Andrić vinceva il premio Nobel per la letteratura. E vabbè, questo direi te lo concedo, sì. Bene. Posso passare al 62 oppure mi chiudi? No, direi che basta con Corevanno. Hai chiuso per stasera e per le prossime 10 puntate non si fa più Corevanno. Direi che è già tardi, sono le 22:13, abbiamo anche sforato. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta stasera. Ci risentiamo martedì prossimo, sempre alle 21. Non sappiamo ancora quale sarà l'argomento della prossima trasmissione, ma su questo potrete aggiornarvi sulla nostra pagina Facebook, Balkan Rock on My Radio. Stasera chiudiamo con Indexy, un gruppo di Sarajevo, e la canzone è Sve ove godine. Adesso non so se si è intitolato così, ma il ritornello dice questo. Sì, si intitola Sve ove godine. In realtà non è un pezzo degli anni 60, è un pezzo del 1972, ma avevamo finito i pezzi degli anni 60, quindi abbiamo messo gli Indexy, che tra l'altro è molto molto bello come pezzo, quindi. No, anche perché è un gruppo che è iniziato nei primissimi anni 60, quindi un gruppo beat. Sve ove godine, ta la visa je tu. questo pezzo vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo con Balkan Rock, sempre alla stessa ora, alle ore 21 su My Radio. Do viđenja svima. Neće da kaže, samo klimne glavom kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još si mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć.